The Wide Line. www.wideline.it. Good music. Calamita, esplorazioni musicali tematiche a cura di Enrico Sisti J Selector. Buonasera a tutti, qui è Enrico Sist con l'appuntamento settimanale con Calamita, trasmissione dedicata alle playlist esplorative, alle playlist tematiche dedicate a vari aspetti della musica e traslati su diversi argomenti e suggestioni. Dopo la puntata zero della volta scorsa, la prima vera e propria puntata di oggi ha un titolo, ogni puntata avrà un titolo, Bestiario. Bestiario è ispirato all'ultimo libro del nostro concittadino Davide Toffolo, fumettista, autore di fumetti, musicista, Tre leghe dei ragazzi morti, lo conoscete tutti, anche mio caro amico personale. Lui ha fatto il logo della mia trasmissione Calamita. Ci ispiriamo a questo nuovo libro che è un bestiario, è una sorta di diario naturalistico, qui ci sono diversi schizzi di animali di diverso tipo, e la playlist di oggi infatti sarà dedicata agli animali, e non possiamo che cominciare con un pezzo dei Tre leghe dei ragazzi morti, dal disco Sogno del gorilla bianco del 2004, Voglio, canzone ovviamente dedicata al tema animalesco, come sentirete. Voglio respirare come un animale, voglio stare bene. Calamita, attrazioni magnetiche sonore a cura di Enrico Sisti J Selector. Eccovi di nuovo su Calamita, avete ascoltato Voglio dei Tre leghi dei ragazzi morti. Calamita è una trasmissione settimanale dedicata a playlist tematiche. Il tema di oggi è Bestiario, ispirato all'ultimo libro di Davide Toffolo e dedicato a canzoni che parlano di animali. Andiamo subito ad ascoltarci il secondo pezzo di oggi di Cognitive. Chi è Cognitive? È il nome che si è scelto, e non potevamo chiedere di meglio per la puntata dedicata agli animali, il producer e beatmaker francese Cyril Capra, perfetto. e No More di Cognitive, ultima uscita del 2023. E perché la suoniamo? No More perché campiona pesantemente Hound Dog, che voi direte voi un pezzo di Elvis. No, non era un pezzo di Elvis. Elvis ha fatto una versione di un pezzo di Big Mama Thornton, che era una blues woman americana, e nel 53 ha inciso questo disco e Elvis ne ha fatto una versione. Cognitive in questa No More la usa e la rimastica, la rimaneggia un po'. Andiamo a sentircela. Avete ascoltato No More di Cognitive, che richiamava Hound Dog di Big Mama Thornton, canzone dedicata ai cani. Questa playlist di oggi è dedicata agli animali. Ogni settimana una playlist diversa. Vi ripeto che adorerei un sacco ricevere vostre suggestioni di nuove playlist. Ogni settimana indagheremo un argomento diverso. Oggi bestiario, quindi animali. Continuiamo, rimaniamo negli anni 50 e ci ascoltiamo un pezzo di Joe Clay. Chi era Joe Clay? Joe Clay era un cantante rock and roll, rockabilly, contemporaneo di Elvis Presley, che addirittura di qualche mese ha preceduto, lo ha preceduto nella trasmissione americana famosissima qui che ha lanciato Elvis, Led Sullivan Show. però non ha avuto lo stesso successo. Il suo manager gli proibiva di esibirsi fuori dall'area di New Orleans, quindi non ha avuto un grosso successo. Noi ci ascoltiamo DuckTale del 1956, letteralmente tradotto coda d'oca o anche culo d'oca. Era una pettinatura fondamentalmente dell'epoca degli anni 50, e c'è questa similitudine con il mondo degli animali e noi andiamo ad ascoltarcela. Don't mess with my dog tails. Don't mess with my dog tails. If you mess with my dog tails, I'll get so mad at you. You gotta jump like a jumper, move like a moocow, bob like a bobcat, but don't do that. Don't mess with my dog tails. Don't mess with my dog tails. If you mess with my dog tails, I'll get so mad at you. Hey, don't mess with my dog tails. Don't mess with my dog tails. Don't mess with my dog tails. Don't mess with my dog tails. If you mess with my dog tails, I'll get so mad at you. Oh, go cat, go. Shotgun. If you don't love me, baby, you got no sense. But Lordy, Miss Carter, don't jump that fence. Don't mess with my ducktails. Don't mess with my ducktails. If you mess with my ducktails, I'll get so mad at you. Hey, don't mess with my ducktails. Baby, don't mess with my ducktails. Don't mess with my ducktails. Don't mess with my ducktails. If you mess with my ducktails, I'll get so mad at you. Calamita, esplorazioni musicali tematiche a cura di Enrico Sisti J Selector. Ogni lunedì alle 19:30 su Wide Line Radio. Rieccoci qua su Calamita. Enrico Sisti DJ Selector vi traghetta verso una playlist tematica sempre diversa. Questa settimana è bestiario, quindi tutte canzoni dedicate agli animali. Continuiamo il nostro viaggio cambiando totalmente genere. E vi ricordo, non prendetevi paura, qui noi a Calamita amiamo ogni genere musicale. Quindi avanti tutta, e ora passiamo ad un pezzo degli Evil Cowards, che è un gruppo americano, è un progetto di Tyler Spencer. Tyler Spencer, anche noto come Dick Valentine, era un membro degli Electric Six. Gli Electric Six era un gruppo musicale a cavallo tra garage, punk, comedy rock, ha avuto diversi successi. Gary Valentine ha voluto provare un nuovo progetto in cui dava la sua versione della dance music. Noi ci ascoltiamo dal primo disco Love Pigs questo pezzo dedicato ai maiali. I membri di questo gruppo andavano in giro vestiti con maschere di maiali, come si può vedere nel video che potete trovare su YouTube. Il pezzo del 2009, Evil Cowards, Love Pigs. They're gonna be a big, big fuss and a whole lot of pork when the love pigs get here. They're gonna be poking at us with a bloody pitchfork. With crucify when you finally choose who the loser is here. Lo senti il suono della calamita? Esplorazioni musicali tematiche. Ogni settimana una playlist diversa con Enrico Sist DJ Selector. Vi ricordo, fatevi sentire. Esploreremo diversi argomenti musicali, temi, anche suggestioni. Qualsiasi tipo di suggestione diventerà una playlist musicale. Quindi adorerei sentire un vostro feedback a riguardo. Continuiamo con la playlist di oggi, Bestiario, dedicata agli animali, canzoni che parlano di animali. Facciamo un viaggio in Colombia alla scoperta di una specie di gallinella tipo che si trova solo lì, che è la pava congona, che è anche il titolo della canzone che andremo ad ascoltarci di Andrés Landero. Chi era Andrés Landero? Andrés Landero era un compositore e cantante di cumbia. Cumbia è un genere nato in Colombia, molto caro anche a Davide Toffolo, che ci ha dato l'ispirazione col suo ultimo libro per la puntata di oggi. E Andrés Landero nel 1972 incide questa pava congona, che è un pezzo di cumbia. La cumbia è un genere musicale che nasce in Colombia, ma in ogni angolo dell'America Latina ha vita nuova e sapori nuovi. In Argentina, nell'America Centrale, in Messico, Colombia, in Perù ci sono tanti tipi di cumbia. Noi adesso ci ascoltiamo la pava congona di Andrés Landero. ese pájaro. Calamita, esplorazioni musicali tematiche, le playlist di Enrico Sis DJ Selector ogni settimana qui su Wild Light Radio dalle 19:30. Esploreremo un tema diverso. Oggi bestiario, ispirato all'ultimo libro di Davide Toffolo e dedicato a canzoni che parlano di animali. Abbiamo ascoltato canzoni su cani, su maiali, su oche, su gallinelle colombiane, e ora arriviamo agli orsi, facendo un saltino a New York con gli Yeah Yeah Yes, capitanati da Karen O, che sono un gruppo indie rock che nasce negli anni 2000, e ci ascoltiamo un pezzo dal disco Show Your Bones del 2006, Honey Bear, orsacchiotto da miele. Qui la similitudine è soprattutto sessuale barra amorosa. Andiamo ad ascoltarcelo, Honey Bear, Yeah Yeah Yes. Bye.

Lo senti il suono della calamita? Eccovi di nuovo qua su Calamita con Enrico Sis DJ Selector. Playlist, tematiche, ogni settimana un argomento diverso. L'argomento di questa settimana è bestiario, solo canzoni dedicate agli animali. Abbiamo appena sentito Maledetto di un gatto di Lucio Battisti del 1978 dal famosissimo album Una donna per amico. E adesso saltiamo in Giamaica a Kingston con Dottor Alimentado e ci ascoltiamo Best Dressed Chicken in Town, il pollo meglio vestito della città, un pezzo che è prodotto dal celebre Lee Scratch Perry, sarto e produttore del dub reggae giamaicano. Chicken in town. Help, help, don't fly. I'm Mr. Best Dressed Chicken. Ring up, zing up, a jaja. Calamita, ogni lunedì alle 19.30 su White Line Radio, la radio della tua città. Ancora qui con voi Enrico Sist, DJ Selector, e la sua Calamita che attrae canzoni di temi musicali sempre diversi, generi sempre diversi, che vanno ad esplorare un argomento che ogni settimana cambia. Questa settimana le canzoni sono tutte dedicate agli animali. Il titolo è Bestiario ed è ispirato all'ultimo libro di Davide Toffolo. Dalla Giamaica facciamo un altro bel saltino e passiamo in Francia. Ci ascoltiamo un pezzo dei Cas Product, che era un duo cold wave francese. Il pezzo è del 1982 e si chiama Pussy X, e anche qui c'è la solita similitudine con il mondo degli animali e l'ascolterete. Meow. Stai ascoltando Calamita. Calamita, puntata dedicata a canzoni che parlano degli animali. Enrico Sis, DJ Selector, è qui con voi a proporvele spaziando attraverso generi e sapori sonori diversi. Continuiamo la nostra playlist con un animale leggendario e legato all'idea della città di New York. Sì, stiamo parlando di King Kong. È un pezzo di The Jimmy Castor Band. Jimmy Castor era un sassofonista e cantante funk, soul, R&B di New York. E questo pezzo è del 1978 ed è dedicato a King Kong, quindi potete sentire versi scimmieschi e cose del genere, ma c'è una particolarità, che il testo dice "Che mo sabe King Kong". Che mo sabe è una frase che non c'entra niente, che è presa da una vecchia serie dedicata ai cowboy dei Lone Ranger. E Lone Ranger aveva un aiutante indiano che si chiamava Tonto e diceva sempre questa frase, "Che mo sabe", e Jimmy Castor l'ha inclusa in questa canzone. Andiamo ad ascoltarcela, King Kong di Jimmy Castor Band. Como same Kong! He lived in the jungle where he was born. Never measured, but was great. The jungle shook beneath his mighty weight. His arms were muscled, sturdy as a tree. His chest was thick and wide as it could be. Come on, me. Calamita, attrazioni magnetiche sonore a cura di Enrico Sisti, DJ Selector. Avete ascoltato King Kong di The Jimmy Castor Bunch del 1975. Adesso facciamo un salto nel 2007 e continuiamo questa playlist tematica dedicata a canzoni che parlano di animali con un pezzo degli MGMT, che sono un gruppo indie elettronico molto particolare che nel 2007 ha avuto un sacco di successo con l'album Oracular Spectacular. Diverse canzoni tipo Kids sono entrate in classifica, sono diventate molto conosciute. Dallo stesso album ci ascoltiamo un pezzo che rientra nel nostro profilo di indagine sugli animali, che è Off Moons, Birds and Monsters, di Lune, Uccelli e Mostri, MGMT. Calamita, esplorazioni musicali tematiche a cura di Enrico Sisti J Selector. Ogni lunedì alle 19.30 su Wildline Radio. Enrico Sist è qui con voi con Calamita e siamo arrivati alla fine di questa playlist tematica settimanale, questa volta dedicata a Bestiario. Bestiario è l'ultimo libro di Davide Toffolo che ci ha ispirati a fare una playlist dedicata a canzoni che parlano di animali. Siamo arrivati all'ultima canzone e come non possiamo non finire con un altro omaggio alla nostra città, i grandissimi Sic Tamburo di Gianmaria e la meravigliosa Elisabetta. Ci ascoltiamo dal primo disco del 2009, Sic Tamburo, Il mio cane con tre zampe. Con questa vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima. Calamita, attrazioni magnetiche sonore su Wildline Radio. Ogni settimana una playlist diversa dedicata ad un argomento diverso. Sic Tamburo, Il mio cane con tre zampe. Ciao a tutti. Calamita, esplorazioni musicali tematiche a cura di Enrico Sisti J Selector. Ogni lunedì alle 19.30 su Wildline Radio.